Dunque, allora Marta ha portato il libro di Mancuso, Dolore Innocente, l'ha messo lì sul tavolo e io sono... c'è più niente da fare, ormai sono costretto a leggerlo tutto perché è di seguito, perché è una specie di droga questo libro, nel senso che va a toccare dei punti fondamentali per la comprensione del mondo in cui viviamo. Lo fa naturalmente dal punto di vista di un teologo, ma un teologo che ha una competenza filosofica profondissima, quindi è un uomo di grande interesse. E poi figlio di un muratore, questo che è bello. Il fatto che sia stato figlio di un muratore e che abbia lavorato con le mani, abbia capito che cosa, probabilmente gli dà quel senso di rispetto per chi ascolta o per chi legge, che fa sì che scriva in modo del tutto comprensibile, su temi che altrimenti sono inaccessibili. In questo io ho una grande gratitudine particolare per un uomo che fa così. Allora adesso diciamo, allora, come dicevi, no Marta, di cosa parla questo libro? Tu un po' l'hai letto, insomma. Sì, ho letto le prime parti, è sì. Un tentativo da parte sua di interpretazione dal punto di vista della teologia cristiana, di quella che è la realtà dell'handicap, perché Mancuso non ha trovato spiegazioni, anche ricercando verbalmente con persone all'interno della gerarchia cattolica, eccetera, non ha mai trovato e ricevuto quella che può essere una spiegazione soddisfacente per chi è effettivamente all'interno del problema, nel senso che lui e sua moglie erano in attesa di un bimbo gravemente disabile e che poi è mancato prima di nascere, e questo dolore, questa sofferenza l'ha marchiato un po' a fuoco, no? Questa esperienza molto intensa, e da lì questa ricerca del significato, del perché dell'handicap, se è vero che c'è un Dio che ci conosce ancora prima di nascere, ancora quando siamo nel grembo materno, eccetera eccetera, e ci crea uno per uno, come dice la Bibbia, allora lui si chiede: ma allora che cosa significa il disabile? Il essere creato in modo da avere una vita di sofferenza. Infatti. È interessante quello, sì. Mi è rimasto impresso, poi appunto ho interrotto la lettura perché è sparito, sì. Il libro. Sì, sequestrato. Però interessante l'aspetto in cui dice che al di là del dolore fisico proprio nella carne, a livello ontologico la persona è comunque, la dignità umana è salva, cioè non, su questo non c'è dubbio. Certo. E poi appunto... Vabbè, allora vi dico qualcosa. Allora, intanto che sull'handicap qualcosa è stato detto nel passato, sia dai filosofi sia da... il Mancuso fa un elenco. In pratica... l'idea più ricorrente è che queste malformazioni sono conseguenza di un peccato, quindi sono una punizione di Dio che punisce l'uomo, perché per esempio c'è un elenco di misfatti, insomma, che l'uomo può fare per generare poi dei mostri. Una volta si chiamavano mostro perché colui che mostra rivela qualcosa. Che cosa rivela? Rivela dietro che c'è questo peccato. Un'altra visione, invece più pagana, è quella che il portatore di handicap è un segnale, un segnale che si può leggere come previsione del futuro. Per esempio, la nascita di fratelli siamesi può indicare che c'è sofferenza, indica per esempio che, vabbè, in questo caso... che il cristianesimo si è diviso in protestanti e in cristiani, insomma, e quindi c'è sofferenza dentro il corpo della Chiesa. Insomma, ma anche i pagani, stavo dicendo prima, vedevano l'handicap, il mostro, come un segnale, che dicevano se il re avrebbe avuto fortuna, se avrebbe avuto sfortuna, se sarebbero stati attaccati dai nemici e così via. Quindi, o segnale, previsione del futuro, oppure peccato dovuto, insomma. Quello che mi sembra manchi nella storia in generale è il fatto che l'handicap è una conseguenza di come è fatta la vita. La vita procede per errori e prove, cioè gli esseri viventi, da Darwin poi sappiamo che nascono, si costruiscono bene o si costruiscono male, e che la vita è poco interessata al singolo individuo. Le specie vengono tranquillamente distrutte e poi si ricostruiscono degli altri. singolo individuo viene completamente ignorato. Se andiamo a vedere nella storia, guardiamo gli animali, il leone che viene più il nuovo, chi vince una competizione tra leoni nel branco, il leone nuovo tranquillamente mangia i cuccioli precedenti. Quindi la vita è spietata in questo senso. Ora, nell'uomo si dice no, c'è un salto ontologico tra gli animali e l'uomo. Beh, questo è tutto da vedere, nel senso che questo è ciò che ci dicono le religioni, ma alcune nemmeno questo ci dicono. Ci dicono che c'è una continuità della vita, la sacralità c'è già nella vita degli animali, nella vita delle piante. La religione cristiana non parla di animali, dice che ha fatto l'uomo a immagine e somiglianza di Dio e come dominatore di piante, animali e tutto quanto. E questo è piuttosto chiaro. Allora, da un punto di vista laico, l'handicap è una conseguenza normale dello sviluppo, cioè ci sono le persone che nascono così perché c'è un errore genetico, c'è una malformazione. E pensare ai genitori come colpevoli, o la famiglia come colpevole, la società come colpevole, potrebbe essere un'idea non tanto felice. Oh, il punto è che cosa fare di fronte a questo evento. Poi io non sono interessato tanto alle spiegazioni generali, anch'io non sono figlio di un muratore, ma mi sento come sono amico di coloro che mettono le mani nella terra, nella meccanica, sono i falegnami, i fabbri, insomma, quelli che parlano di ciò che fanno, insomma, ecco, quindi ho sempre un certo, non dico, ma una certa diffidenza nei confronti dei discorsi troppo astratti. Allora, di fronte a un bambino che nasce handicappato, cosa c'è da fare? C'è da fare che è ovvio che è un bambino, cioè sono un idiota, penserebbe che non lo sia. In passato qualcuno pensava che non lo fosse, non fosse umano perché non ha coscienza, chiaro che lo è. E in ogni caso è chiarissimo che i genitori hanno per lui amore, è nato da loro, ma è altrettanto chiaro che come ogni madre, oltre all'amore, prova l'odio. E questo sarà bene sottolinearlo, per cui un genitore già con un bambino normale può provare tutti e due i sentimenti, figuriamoci con handicappato. Allora, di fronte a un evento di cui non so darle ragione, se non un fatto biologico, mi sembra ovvio che avvengano, poi specialmente in condizioni di cattiva alimentazione, di disagi, di inquinamento ambientale, insomma basta, è chiaro che dove scoppia una bomba atomica dopo ne nascono di più, è piuttosto evidente. Ecco, allora per esempio alla città di dove è scoppiata la bomba atomica in Giappone, due città sicuramente Hiroshima e Kawasaki, lì nasceranno, si può dire che allora quei giapponesi sono più colpevoli, cioè, voglio dire, andiamo veramente a parlare di cose senza senso. Occuparsi di cose di questo genere, a mio avviso, serve a staccarsi dal mondo reale, dove l'amore va praticato. L'amore va praticato dove? Nel contatto con le persone. Con chi? Con quelle, a partire da quelle più vicine. La più vicina di tutti chi è? Siamo noi. Quindi, in termini laici, e volendo usare la ragione, quindi essendo liberi di usarla da ogni pregiudizio, possiamo ragionare passo a passo che cosa vuol dire amare. Allora, è chiaro che l'amore nei confronti dell'handicappato significa accoglierlo così com'è e fare in modo che viva il meglio possibile. Naturalmente occorre un amore anche per sé. Amore per sé vuol dire guardarsi dentro e vedere i conflitti che possiamo avere e quindi la presenza di un handicap per poterlo accettare, e io conosco persone che l'hanno fatto, per poterlo accettare occorre una grande evoluzione personale. Ci costringe a fare un salto a un livello di coscienza superiore, cioè più alto di quello di prima, per poter amare. No? È già difficile amare normalmente, figuriamoci amare un essere che dipende totalmente da noi per tutta la vita. In questo senso abbiamo due possibilità, come di fronte alle difficoltà della vita. O opporci e dannarci l'anima, oppure accettarle pienamente, e accogliere non il messaggio di chissà chi, perché io non so se c'è qualcuno, non c'è bisogno, c'è semplicemente qualcosa che c'è da fare, c'è da accudire, da fare. Se lo fai con gioia, con amore, tu cresci, diventi una persona di luce, e questo lo fai non solo per l'handicappato, ma diventa per te stesso, perché diventi una persona più felice di prima, se si può dire, perché veramente fai un balzo, diventi una persona illuminata, e per le persone intorno, che vedono in te un esempio, perché se tu sei in grado di accudire una persona che dipende totalmente da te, che non potrà mai avere nessuna consapevolezza, beh, allora tutti gli altri intorno hanno un esempio forte di cosa vuol dire accettare la sofferenza, non come dono di Dio, accettarla perché è accaduta, e poi trattare la sofferenza in modo evolutivo, intelligente, quindi è una prova di intelligenza, cioè di utilizzare ciò che c'è per evolvere. Ora, molte persone credono che evolvere sia una disgrazia, cioè perché pensano che, tutto sommato i santi abbiano fatto chissà che vita schifosa, oppure le persone che non vanno in discoteca, non si intrippano di ogni ben di Dio, di cibi, che poveri disgraziati che sono. Non è così. Cioè, le persone che evolvono vivono assai di più nella gioia delle persone che non evolvono, cioè delle persone che rimangono, come direbbe Dante, dei bruti. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per servirvi tutte conoscenze. Ora, non c'è bisogno di una discussione religiosa in senso teologico per arrivare a giungere agli stessi principi. Ecco, io credo che oggi, come non mai, abbiamo forse bisogno di una moratoria di Dio, su Dio. Perché Dio, l'idea di Dio cosa vuol dire? L'idea dell'unità di tutte le cose, lo spirito è ciò che unisce tutte le cose. Purtroppo in base a quest'idea si sono verificati più guai che cose positive, le guerre di religione hanno inseguinato l'Europa, ma non hanno sempre fatto. Il moratorio di Dio non significa il moratorio della spiritualità, mai come oggi abbiamo bisogno di spiritualità. La spiritualità però non deve dividere, nel momento che divide è diabolica, ecco, è l'opposto della spiritualità. Questo cosa significa? Che allora non ci devono essere religioni, ma per carità di Dio, certo che ci devono essere. Se uno è religioso, che continui nella sua religione, la cosa più bella al mondo, quella è la sua strada. L'importante è che si capisca che è una strada che va bene per quella persona, per quel gruppo di persone, ma che non va imposta a nessuno, che altri possono avere altre strade per raggiungere la spiritualità. Nel momento che una religione qualunque si pone come l'unica vera, è chiaro che crea conflitto. Per forza, genera di per sé un conflitto, genera quella che si chiama la guerra di religione, che può essere fatta con le armi o anche semplicemente con i pensieri, con le parole o all'interno della propria coscienza. Quindi io accoglierei l'invito di Panikkar, oggi abbiamo bisogno soprattutto di dialogo tra punti di vista differenti, perché, come ci insegna Jung, noi ci attacchiamo a dei pregiudizi, la coscienza è un insieme di pregiudizi. È solo la conoscenza piena che c'è attraverso, se contattiamo il nostro inconscio, la nostra parte, la nostra ombra, è soltanto lì che può nascere l'armonia e tutte le qualità dell'essere che tutte le religioni predicano. Ma per praticare le qualità dell'essere occorre avere il coraggio di guardare nell'ombra. E nell'ombra vuol dire saper proprio non praticare il giudizio. Non praticare il giudizio vuol dire che io non temo di osservare dentro di me delle parti ignobili. Se lo temo non le riuscirò a vedere. Ecco. Allora, in un certo senso bisogna mettere insieme oggi ciò che è l'anima delle grandi religioni, ciò che è l'anima della psicologia, ciò che è l'anima dell'ateismo. Cioè, anche Nietzsche dice cose fondamentali. Non si può prendere Nietzsche e buttarlo dalla finestra. Cioè, Nietzsche reagisce a un modo di vedere la religione che per qualche aspetto non è sano. Ecco, il senso di colpa, peccato e punizione, non è un granché. Dal punto di vista psicologico, è proprio bruttino, è ciò che serve a generare sempre più ombra. Ecco, e se vogliamo proprio essere chiari, nella storia del cristianesimo quest'ombra c'è stata, perché non si può immaginare che ci sia stata un'inquisizione con delle persone torturate, e vuol dire proprio torturate, vuol dire sottoposte alla peggiore cosa che un essere umano può fare su un'altra, se queste persone non avessero sviluppato un'enorme ombra. Chi ha torturato queste persone? E perché ha sviluppato ombra? Perché ha ritenuto di dover essere completamente buono, a immagine e somiglianza di un Dio totalmente buono. Allora Mancuso si chiede, ma com'è possibile che ci sia un Dio che è totalmente buono, che tesse ogni, non c'è foglia che si muove, che Dio non voglia, e che nasce un handicappato, cioè un essere innocente che dovrà soffrire tutta la vita e una famiglia dovrà soffrire? Ma questa domanda è una domanda che si pone soltanto chi vede Dio come persona. Cioè come una specie di superuomo che sta da qualche parte, che si comporterebbe come un uomo. Allora se si comporta così... il tema della provvidenza. Tutto il tema della provvidenza. Allora si deve chiedersi che provvidenza c'è stata nei confronti degli ebrei durante la Shoah. Non c'è stata, ecco, voglio dire. Infatti alcuni rabbini dicono lì, Dio ha deciso di non di lasciare l'uomo alla casualità. Ecco. E allora si giustifica tutto, capite? In questo modo... L'appello alla ragione, che peraltro il Papa fa in continuazione, allora va fatta davvero. La ragione va fatta davvero, bisogna confrontarsi con il filosofo che utilizza la ragione. La filosofia è nata come utilizzo della ragione al posto del mito. a volte la filosofia è un gioco di parole, e quindi è meglio da sapere. Ma c'è una buona filosofia, c'è una sapienza che utilizza la ragione e che sa dare anche il posto giusto al mito. Ecco. Nietzsche ce l'aveva con Socrate perché voleva demitizzare, togliere il mito, utilizzare solo la ragione, creare solo dei concetti. E va bene, c'aveva ragione, mica torto. Ecco. Quindi in ogni punto di vista c'è un fondo di verità. Ecco, quello che per noi moderni è difficilissimo ancora accettare, la storia ancora non ce l'ha segnato, nonostante che ci siamo insanguinati per 4.000-5.000 anni, è che ogni punto di vista contiene una verità, ma contiene anche degli errori, contiene un'ombra, perché gli esseri umani si attaccano alle loro idee e una volta che si attaccano non riescono a vedere l'ombra delle loro idee. Ecco. Oggi il nostro compito è quello di saper dialogare con atei, islamici, cristiani, musulmani, protestanti, induisti, con tutte le visioni, senza più giudicare nulla. Se non creiamo più giudizio, che adesso, ieri abbiamo lavorato con alcune persone, avete potuto vedere quanto il giudizio crea la cattiveria, è la matrice della cattiveria umana il giudizio. Allora pensare che dobbiamo essere sottoposti a un processo di colpa, perdono, peccato, eccetera, è qualcosa che non fa che incrementare. Ma questo non è un buon messaggio, è un messaggio umano, non divino. Ecco, allora il divino si è espresso infinite volte, forse un modo per pensare al divino è un fenomeno emergente, cioè la natura umana, indubbiamente, cioè la natura ha sviluppato tante forme di intelligenza fino ad arrivare all'essere umano, che per quel che conosciamo noi. Attilio mi dice che gli esseri umani sono gli unici viventi sulla Terra. Ma io non so come fa a dirlo. Sulla Terra sì, no scusa, nel cosmo non esiste vita al di fuori che sulla Terra. Gli esseri umani sono... Beh, questo è un principio antropico, cioè è un'evidentissima proiezione della nostra psiche che spera di essere al centro dell'universo, come faceva il popolo di Israele che si è ritenuto il popolo prediletto da Dio. Ora dimmi te, cosa vuol dire essere il popolo prediletto da Dio? Ma un Dio che predilige un popolo, se Dio è un padre, non è un buon padre. Un padre che ne predilige un figlio è un pessimo padre. Quindi l'idea che Israele ci consegna del Dio, francamente, se lo vogliamo esporre, la ragione pura, come direbbe Kant, non può che fare una brutta figura. Cioè nel Vecchio Testamento Dio manifesta le normali passioni umane, l'ira, la permalosità, ecco, vabbè. Queste sono cose che, se esposte alla ragione, sono abbastanza evidenti e ovvie. Con questo non significa che allora bisogna buttare al mare tutto. Questo è il timore che alcune persone hanno, è giustamente sensato, perché il laicismo non ha prodotto un granché di buono. Un'indifferenza, un nichilismo ci ha portato allo sviluppo del mercato, della crescita senza fine, dell'egoismo senza nessun ritegno. Ecco. Quindi il compito nostro di moderni è trovare un dialogo tra l'anima dei diversi punti di vista, religiosi, non religiosi, atei, cristiani, non cristiani. Questo è il futuro, a me sembra, ecco, dove noi possiamo veramente sviluppare lo spirito, che vuol dire l'unione di tutte le cose, comprese l'unione di tutte le idee, discernendo all'interno delle idee quanto c'è di, diciamo così, di anima e quanto c'è di copione, di come noi li distinguiamo, no? In ogni settore. Ecco. Questo, a mio avviso, è il messaggio fondamentale su cui lavorare, ecco, per cui mi piacerebbe vedere allo stesso tavolo Galimberti, che crede alla visione dei greci e non ha certo una visione cristiana, Mancuso, che crede nel cristianesimo, che è cristiano, cattolico, mi piacerebbe vedere Davide Cova, che è un buddista, mi piacerebbe vedere Dino Reppolo, insomma, Corrado Augias, che è un ateo, e dialogare insieme. Non perché debbano cambiare idea, ognuno si tiene la sua, ma per fare in modo che questa idea produca qualcosa che ci accomuna, che cioè che ci porta a prendere, ad utilizzare dei comportamenti, atteggiamenti in fronte del mondo che sono simili, come quello che dice il Dalai Lama. Il Dalai Lama è interessato a un buddismo per i non buddisti, cioè è interessato a portare nel mondo la compassione. Quando i cristiani diranno che sono interessati non al cristianesimo, a portare nel mondo l'amore, il loro messaggio sarà assai più credibile. Altrimenti il cristiano oggi rischia di comunque ad avere degli aspetti dogmatici. E il dogma che cos'è? Un decreto. È un decreto che pone fine a una disputa tra due parti, quella che dice A e quella che dice B. Ebbene, il dogma quindi pone fine alla ricerca. Ecco, questo è ciò di cui abbiamo meno bisogno, perché siamo pieni di dogmi. Noi abbiamo bisogno di togliere dogmi, ma non togliere la ricerca della verità. La ricerca della verità è una tensione che c'è dentro l'uomo e che va riconosciuta come l'aspetto più importante dell'uomo. Tensione della verità vuol dire tensione anche verso qualcosa che c'è di più grande, dello spirito, ciò che ci veramente ci può unire. Ecco. Da lì si può fondare la pace del futuro, ma che pace che porta, parte da, prima di tutto, dall'empatia nei confronti di ogni essere, non solo degli esseri sani, degli esseri handicappati, e anche degli esseri che sono animali e delle piante. E quindi lo scempio che noi facciamo sulle piante e sugli animali, per esempio la Chiesa non se n'è mai occupata. Perché? Gli animali, trattarli in quel modo è una cosa orribile, porta l'essere umano a diventare, cattivo. E quindi che significato ha occuparsi solo di noi esseri umani? Il narcisismo, quello è narcisismo. Ecco. Quindi forse è giunto il momento in cui la saggezza dell'Oriente, la saggezza dell'Occidente, la saggezza del misticismo occidentale, quello del misticismo orientale, e la saggezza dei filosofi, quello che c'è di saggio, finalmente possa dialogare in un grande tavolo, in una grande sala, e forse lì potrà nascere un progetto di pace. Tornando al tema di cui abbiamo parlato prima, quindi il dolore innocente, ecco, qualunque discussione che noi facciamo comunque avviene dal nostro punto di vista. Ognuno ha un punto di vista, da una sua visione del mondo. Questa visione del mondo non è casuale, non è una proprietà privata. Dipende da quello che hai vissuto nella vita con i tuoi genitori, dal tuo carattere che si è formato quando eri così piccolo che non avevi una grande coscienza ancora. Dipende dalla tua tipologia, ad esempio se sei più zinker o sei più filer. Se sei più filer sei più disposto a vedere caso per caso, se sei zinker vuoi vedere le leggi generali. Cosa intendo dire? Che noi non siamo mai puri nel discutere, che noi abbiamo delle tensioni interne di un campo interiore che ci porta a privilegiare un certo sistema di idee e a vedere in un certo modo il mondo, e la ragione, quella che noi chiamiamo la ragione, di solito è soltanto una razionalizzazione, cioè una copertura, una giustificazione di decisioni ideologiche prese inconsciamente o acquisite inconsciamente quando non abbiamo coscienza. Cosa significa razionalizzazione? Lo si vede benissimo nel fenomeno ipnosi, nel comando post-ipnotico. Si dice a una persona: apri l'ombrello quando verrai la prossima volta che farò un segnale, e la persona, magari una festa, quando l'ipnotista fa il segnale, apre l'ombrello. Si va dalla persona e gli si chiede: perché hai aperto l'ombrello? La persona non dirà: perché ho obbedito a un comando post-ipnotico, non lo sa. E allora sai cosa fa? Non dice: non lo so, troverà delle giustificazioni. Ecco, allora, questo principio, questo esempio, è una delle cose più importanti per capire qual è il nostro atteggiamento in confronto alla conoscenza. Noi non siamo quasi mai liberi di conoscere. La libertà è qualcosa che c'è quasi data raramente. Di solito siamo soggetti a dei comandi ipnotici, che abbiamo ricevuto, che ci siamo dati quando eravamo piccoli e così via. E questi comandi ipnotici sono i miti, a volte sono comandi ipnotici. I miti a cui aderiamo. Come si fa a liberarsi dai comandi ipnotici? Beh, lo dice Panica. Io non posso vedere i miei, per definizione, però posso vedere i tuoi. E tu puoi vedere i miei, ma non i tuoi. E quindi la via è il dialogo. È il dialogo tra le persone, tra i punti di vista. L'idea che una sola persona, per quanto intelligente, possa giungere alla verità è un po' una stupidaggine, nel senso che qualunque persona è soggetta a dei miti, a dei comandi ipnotici, a cui obbedisce e a cui che copre con le razionalizzazioni. Come fa? Anche se è intelligentissimo, la sua intelligenza produrrà solo razionalizzazioni più complicate. La storia e la filosofia è piena di questo gioco, insomma. E allora come si fa? Si fa attraverso la via del dialogo, come ci sta indicando oggi Panica, non solo, ma altri filosofi di oggi, insomma, ecco. E quindi in questo senso, quindi anche la meditazione, che è conosciuta la via privilegiata dell'Oriente, a nostro avviso, a mio avviso, non è sufficiente. Io posso meditare, ma non è mica detto che mi liberi dalle mitologie, assolutamente, perché le vedo sempre un po' dal mio punto di vista. Quindi la meditazione è un'ottima pratica, ma va integrata con altre pratiche, tra cui quella del dialogo che però per funzionare deve essere musicale, e qui rinvio a quello che abbiamo detto altre volte, cioè deve essere fatto sul rispetto dell'altra persona, cioè come due che suonano insieme e producono musica, quindi si devono integrare i due modelli, se no non si è dialogo, si ha discussione, a discussione una battaglia, un discuotere l'altro, cercare di avere ragione, quello non serve a niente. Ecco. Il dialogo invece ci arricchisce, cioè, come direbbe Hofstetter, fa in modo che noi al nostro interno riproduciamo in parte la visione dell'altro che diventa un po' la nostra. E quindi quando abbiamo finito un dialogo non siamo più come prima, siamo arricchiti da un'altra visione. E siccome questa magari è in conflitto con la nostra, siamo portati, diciamo, di necessità, o ne eliminiamo delle due, o se le teniamo tutte e due, siamo costretti a fare un lavoro. Che molte persone evitano di solito. Il lavoro consiste in che cosa? Nel trovare ciò che c'è di essenziale in una posizione e nell'altra. Quindi di andare all'anima delle due posizioni, allo spirito che c'è nelle due posizioni, e questo avviene quando entrambe le posizioni acquistano senso, si integrano, si arricchiscono reciprocamente. Beh, PNL vale la tecnica dello squash, insomma, è quella che tutti la conoscono. Va bene.